personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. La storia che voglio raccontarvi oggi arriva dalla nebbia di un passato lontano. È una vicenda della quale si è perso molto, però è stato anche aggiunto molto dalle persone che ne hanno parlato, da chi ne ha scritto nel corso dei secoli. E qua per raccontarla bisogna farsi largo, bisogna districarsi tra storia, mito, leggenda. Il protagonista è un re. È un re diventato il simbolo stesso del potere, inteso come ricerca della giustizia, dell'onestà, del rispetto, della protezione dei più deboli, dell'onore, valori dei quali si parla così poco. Solo qua potete sentir parlare di onore. Un re che è amato, che è stato tradito, che ha combattuto per i valori nei quali credeva e nei valori che voleva affermare, assieme a una schiera di valorosi cavalieri, guerrieri a lui devotissimi. È una storia che ha il suo centro focale in un'arma, una enorme spada. Whoso pulleth out this sword from this stone and anvil is the true born king of all Britain. Chiunque estrarrà questa spada da questa roccia incudine è di diritto il re d'Inghilterra, e la spada non può che essere Excalibur, raccontata in decine di film, documentari, cartoni animati come La spada nella roccia di Walt Disney, la spada magica che secondo la leggenda fece diventare re un misero scudiero, re Artù. Colui che estrarrà la spada dalla roccia sarà re. Sei tu quello. E questa invece era la stessa frase detta da Merlino, un personaggio chiave al quale arriveremo tra poco. Il teatro della storia è l'antica Britannia, è in un'epoca in cui c'erano lotte ferocissime per la conquista del territorio. L'impero romano aveva abbandonato l'isola all'inizio del 400 d.C., dopo secoli di dominazione e diciamo di pace armata, e aveva lasciato spazio ai desideri di conquista di altri popoli, primo tra tutti quello dei Sassoni. Sono anni bui, sono anni di lotte tra potenti locali, scontri feroci, vincitori e vinti che si alternano, ma nessuno che riesce a stabilizzare il suo potere. Bene, in questo contesto di grande instabilità emerge la figura di un grande condottiero, Uther Pendragon, il padre di Artù. Lui per molto tempo si oppone alla conquista sassone, rafforza i confini della Britannia, combatte le rivolte interne, però la storia di Artù non è quella di una successione naturale, perché non ci sono un re e una regina, non c'è un diritto divino riconosciuto, è una vicenda più complessa, fin dagli eventi che portano alla nascita del nostro protagonista. La storia della nascita di Artù viene raccontata per la prima volta in un'opera antica, la Historia Regum Britanniae di Goffredo di Monmouth, intorno al 1100. E qui si narra di come il re di Bretagna, Uther Pendragon, riesca a sedare una rivolta della popolazione sassone con l'aiuto di Gorlois, duca di Cornovaglia, era un suo vassallo. Al banchetto della vittoria, però, Uther viene travolto da una passione insana per la moglie di un suo alleato, Igraine. Non ci sono alleanze che tengano davanti al richiamo della carne. Da quel momento l'unico desiderio del sovrano è possedere quella donna, e quindi lo scontro tra i due uomini è inevitabile. Forse già allora i francesi dicevano cherchez la femme, cercate la donna, perché qua c'è un casino, sempre lì si va a parare. Le truppe di Uther cingono d'assedio il castello del rivale, e mentre tentano l'assalto alle mura, Uther si rivolge a un alleato ancora più potente, un druido, forse un mago, è il vero burattinaio di tutta questa vicenda che vi sto raccontando. Si chiama Merlino. La richiesta di Uther non è quella di vincere la battaglia, ma di avere una notte con Igraine. Hai di nuovo bisogno di me, ora che la mia tregua è infranta. Anni per costruire, attimi per distruggere, è tutto per lussuria. Per Igraine. Una notte con lei. Tu non comprendi, non sei un uomo. Usa la magia. Fallo. Igraine. Tu devi giurare sul tuo vero diritto sovrano, Uther, di accordare a me ciò che io desidero. E sarai appagato. Io lo giuro per Excalibur. Ciò che è frutto della tua lussuria sarà mio. Giuralo di nuovo. Lo giuro, Merlino. Il patto è stretto, insomma, in cambio della magia di Merlino per passare una notte con questa Igraine, Uther giura di cedere al mago il frutto della lussuria, vale a dire il figlio che potrebbe nascere, anzi che nascerà sicuramente da quell'incontro carnale. Così succede, con un incantesimo potente Merlino cambia l'aspetto di Uther in quello di Gourlois, che era impegnato in battaglia. Poi il mago aiuta il sovrano a entrare nel castello, lo fa cavalcare in una nebbia densa, arriva fino alle stanze di questa Igraine, che doveva essere evidentemente proprio molto carina. La donna crede di avere davanti il legittimo consorte, si concede appassionata a Uther e scoprirà l'inganno l'indomani, quando è sola nel letto viene avvisata dai cortigiani che il marito è morto negli scontri, proprio nelle ore in cui lei si stava divertendo con Uther. Dove? Quando? Nel campo di Uther, mia signora. Poco dopo il tramonto. Non è possibile. È venuto da me. Al suo letto stanotte. Che sarà di noi? Lord Uther, mia signora. Spetterà a lui decidere. E esattamente come Merlino aveva previsto, dall'incontro carnale tra Igraine e Uther nasce un figlio maschio a cui viene dato il nome di Artù. Uther la sposa Igraine, che ha già una figlia, Morgana, a cui lui non dà nessuna attenzione, però il sovrano deve anche rinunciare al suo unico figlio maschio perché Merlino lo richiama presto alla sua promessa. Quel bambino è del mago che ha per lui dei progetti ben precisi. Uther quindi rimane senza un erede al trono, intanto continua a fare guerra contro i sassoni, che sono sempre più forti, sono vicini a spodestarlo, e lui si ammala, combatte in molte altre battaglie, le vince, i sassoni gli danno il soprannome di re semimorto e poi però riescono a eliminarlo definitivamente. Si dice che lui muoia quando i suoi nemici avvelenano un ruscello da cui è solito bere. Altre fonti riportano di un ultimo scontro, di un'imboscata. Uther è ferito a morte, riesce a conficcare la sua spada Excalibur in una roccia e pronuncia una maledizione. Nessuno l'avrà, nessuno riuscirà a estrarla. C'è però una terza versione, secondo cui non è il sovrano morente a bloccare la lama nella pietra, ma il grande burattinaio, quel mago Merlino, l'Andreotti di quel periodo, che lui sta attuando il suo piano preciso. Lui vuole portare Artù sul trono di Britannia e non si sa qual è la verità. Rimane il fatto che il simbolo del re rimane conficcato nella roccia. Nessun cavaliere riuscirà a estrarla, neanche i più forti. La Britannia in quel momento, almeno per quel momento, non può avere ancora un nuovo legittimo sovrano. Passano gli anni, Artù ormai è diventato un ragazzo, non conosce la sua vera origine perché Merlino, ancora neonato, lo ha affidato a un cavaliere alla sua famiglia. Lui ha un fratello maggiore, Kay, che è già stato ordinato cavaliere, lo accompagna a un torneo come scudiero e i migliori guerrieri si battono in una giostra per conquistare il diritto a estrarre Excalibur dalla roccia, almeno a provarci. Lamentate, figli miei, ciò che vi ho detto, non badate a questi cavalieri ladri. Ok, abbi valore, onestà e misericordia, come si addice a un cavaliere. E tu, Artù, sii modesto e sincero e aiuta tuo fratello a tenere alto il nome dei Morden. Mentre ha luogo la giostra, un ladruncolo ruba la spada di Kay. Artù è lo scudiero, si lancia all'inseguimento del ladro, non riesce a raggiungerlo e si trova nella necessità di trovare per il suo cavaliere, suo fratello, una nuova spada e deve trovarla in fretta prima che Kay sia chiamato a giostrare. Non ci sono armi disponibili, Artù si allontana, cerca nei dintorni della fiera e poi vede una spada, è lì nel boschetto vicino, è splendente, però è conficcata in una roccia inverdita dal muschio. Artù ha bisogno di quella spada e non ci pensa due volte, afferra l'Elsa, la estrae davanti agli occhi stupidi dei presenti, perché nessuno può credere che quel ragazzo poco più che adolescente abbia estratto dopo tanti anni Excalibur, diventando con un solo gesto il nuovo re di Bretagna. Alzati, padre, ti prego. Io ero tuo figlio prima di divenire il tuo re. Se sono il re. Tu sei il re. E più ancora, perché tu non sei mio figlio. e io non sono tuo padre. Non sei mio padre. E Kay non è mio fratello. Merlino, il mago, ti portò da me che eri nato appena e mi ordinò di crescerti come fossi mio. Da prima lo feci perché temevo Merlino, ma in seguito perché ti volevo bene. Chi è il mio vero padre? Solo Merlino può dirti questo. E chi è Merlino? Io sono Merlino. Di chi sono figlio? Tu sei il figlio di Uther e di Igraine. Tu sei il re Artù. Artù è quindi il legittimo re di Britannia. Però naturalmente, dopo anni di battaglie per la successione, ci sono molti pretendenti. È vero, lui ha estratto la spada, quindi da un punto di vista formale è il re. Ma questo naturalmente non basta a annullare le loro pretese. Non è gente che può accettare da un giorno all'altro un nuovo re, che per di più è un ragazzino che fino a pochi minuti prima era semplicemente uno scudiero. E così contro il nuovo sovrano si schierano immediatamente una ventina di governatori e Artù, benché giovane, riesce a batterli, a sottometterli, ed è una sottomissione non solo militare, perché Artù mostra da subito valore, coraggio, ma anche capacità di perdono degli sconfitti. Lui non vuole nemici, non cerca l'affermazione personale, lui è già un illuminato, forse sa già come intende governare, con alleati fedeli, conquistando più che i loro castelli, i loro cuori. Giurami fedeltà e verrai graziato, cavaliere. Ho bisogno di uomini d'arme come te. Un nobile cavaliere. Giurare fedeltà a uno scudiero? No, mai! Mai! Hai ragione. Non sono ancora un cavaliere. Tu, Uriens, mi farai cavaliere. Da cavaliere a cavaliere posso offrirti mercè. In nome di Dio, San Michele e San Giorgio, ti do il diritto di portare armi e di amministrare giustizia. A quel dovere solennemente obbedirò, quale cavaliere e re. Alzati, re Artù. Sono il tuo umile cavaliere e giuro obbedienza al coraggio nelle tue vene, che è così grande che la sua fonte può essere solo Uther Pendragon. Di te non dubito più. Bene, ora il territorio è unificato, il regno di Artù può iniziare. Bisogna decidere dove stabilire la corte, creare un vero e proprio esercito, rafforzare le difese della Britannia contro i tentativi di invasione dei Sassoni, che sono sempre alle porte, sono ingolositi da questo periodo di vuoto di potere che c'era stato nel paese. Bene, la base del re diventa la città di Camelot, un nome che diventerà per secoli simbolo di giustizia. Giustizia e di speranza. Pensate che l'entourage di John Kennedy veniva definito proprio Camelot, quasi a indicare una spinta ideale, illuminata della presidenza di John Fitzgerald Kennedy. Bene, per 1500 anni gli storici, gli archeologi hanno cercato di scoprire l'esatta ubicazione di Camelot. In tempi recenti molti studiosi hanno creduto di identificarla indicandola in località diverse, ma tutte, diciamo, che vanno dallo Yorkshire al Galles. Qualunque sia la realtà storica, rimane il fatto che fin dai primi giorni dell'insediamento di Artù l'eco del nuovo regno si sparge in tutto il paese e anche oltre i confini. I migliori cavalieri dell'epoca convergono verso Camelot per mettersi al servizio del nuovo sovrano, aiutarlo nella costruzione di un regno di cavalieri, un regno cavalleresco. Pensate che bei tempi, un regno ispirato ai più alti ideali. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Vi sto raccontando la storia di un uomo, di un re, di una figura leggendaria dell'antica Britannia, Artù di Camelot. Il suo regno ha coinciso con una vera e propria età dell'oro per il paese, all'inizio del VI secolo, un momento nel quale sono stati tenuti lontani i Sassoni, cosa che lui ha fatto per un'intera generazione assieme a un gruppo di cavalieri ispirati e valorosi. Un re che ha conosciuto solitudine e tradimento, ma il segno del suo passaggio nella storia è arrivato fino a noi. Artù è re di Britannia, ha estratto ancora quindicenne la spada di Excalibur dalla roccia nella quale era stata conficcata e poi ha conquistato i favori dei tanti governatori locali, è arrivato a unificare il regno dopo anni di vuoto di potere. E lui non è un classico sovrano, non è come gli altri, non è mosso dalla sete di ricchezza, di potere o di conquista, lui è spinto da valori importanti, è primo tra tutti il senso di giustizia, di tutela, di protezione dei più deboli. E alla sua corte, nel castello di Camelot, sono accorsi i migliori cavalieri d'Europa che condividono con lui il sogno di una nuova epoca. E Artù ha vicino a sé gli uomini migliori, i cavalieri di rango più alto, non si sa quanti fossero esattamente, le cronache variano, da 12, che è un numero, come dire, di origine apostolica, a un numero più elevato. In ogni caso, questi valorosi a Camelot siedono assieme al re nella mitica tavola rotonda. E è una tavola rotonda per dare a questo convivio un valore non solo estetico, è una tavola nella quale chiunque sia seduto è ugualmente vicino al centro. Questo è il simbolo stesso dell'uguaglianza tra i cavalieri, nei quali lo stesso re è primus inter pares, primo tra uguali. Le regole di vita che legano tutti sono chiare e richiamano i valori più alti della cavalleria. Primo, mai oltraggiare o compiere omicidio. Secondo, evitare l'inganno. Terzo, evitare la crudeltà e concedere pietà a chi la chiede. Quarto, soccorrere sempre le dame e le vedove. Quinto, non abusare mai di dame e vedove. Sesto, mai ingaggiare battaglia per motivi sbagliati quali amore e desiderio di beni materiali. Bene, pensate, dopo 1500 anni io farei uno Stato con queste regole qua. Sarebbe già un grandissimo passo avanti per le democrazie attuali. Ma come tutti i sogni, quello di Artù deve essere costruito e lo strumento nelle mani di un re è sempre quello, la guerra. I primi anni da sovrano sono contrassegnati da molte battaglie e vittorie per allargare il regno, ma soprattutto per consolidarlo attorno a questi sacri valori. I cavalieri di Artù incrociano le spade, naturalmente soprattutto con i sassoni, la popolazione che dalla partenza delle truppe romane un secolo e mezzo prima stava cercando senza sosta di conquistare la Britannia, erano quelli rozzi in questa situazione. Artù riporta vittorie importanti, rafforza i confini, allarga il territorio e al suo fianco c'è il suo primo cavaliere, che è un uomo dalle doti umane e belliche eccezionali. Si chiama Lancillotto. Fatevi da parte! Questa è la strada del re! E i cavalieri contro cui vi siete battuto erano i suoi! Io aspetto il re in persona! I suoi cavalieri hanno bisogno di addestramento! Sono io il re! E questa... questa è Excalibur! Spada dei re dagli albori del tempo! Voi chi siete? Che cosa volete? Io sono Lancillotto del Lago, da di là del mare. Devo ancora trovare un re degno della mia spada. Questo è un vanto borioso. Un cavaliere deve mostrare umiltà. Non un vanto, signore, ma una condanna. Poiché non ho mai trovato il mio pari in torneo o in duello. Fatevi da parte. Non lo farò. Dovete ritirarvi o dimostrare il vostro valore alla prova delle armi sotto gli occhi di Dio. Che mi dia allora la forza di disarcionarvi e di rimandarvi con un solo colpo al di là del mare. La condanna di non aver trovato un proprio pari, questa è bella. Comunque, è un incontro, diciamo, non amichevole, il primo incontro tra i due, però anche Lancillotto alla fine riconoscerà il carisma di Artù e gli giurerà devozione, insomma, diventerà il suo braccio destro. E come accade spesso, il suo uomo migliore sarà anche quello che commetterà il tradimento più grave, che darà inizio al disfacimento del sogno di re Artù. La storia che vi sto raccontando non sono assenti naturalmente i sentimenti umani, le passioni, anche quelli che portano gli uomini a tradire se stessi o a compiere azioni compromettenti, perché questa è una storia di carne, di sangue, di amore e di tradimento. Vi ho già detto di come il padre di Artù Uther abbia tradito la fiducia di un vassallo obbediente, scatenando una guerra solo per poter passare una notte di passione con la moglie di questo vassallo e arrivando anche a ucciderlo. Anche Artù, da poco re di Britannia, ha una donna che conquista il suo cuore e si chiama Ginevra. E lei, assieme a Lancillotto, sarà la disgrazia di Camelot e del suo re. Pensate, succedono spesso queste cose. Non conosciamo le origini di questa donna, forse è la figlia di un governatore locale. Naturalmente ci viene descritta come una fanciulla di straordinaria bellezza, lineamenti leggeri, capelli scuri, occhi verdi. È alla corte di Artù, lui se ne innamora, la chiede in sposa, la prenderà in moglie appena riuscirà a concludere il rafforzamento del regno. Li abbiamo uccisi tutti, li abbiamo bruciato la nave. Lancillotto, quali novelle da noi? Ho risparmiati alcuni perché possano raccontare quale sorte hanno avuto per mano dei cavalieri. E tu, Williams? Vittorio! Lot, e tu? Abbiamo respinto gli invasori in mare. Tu, Galvano? L'est è di nuovo nostro. L'ovest è libero e con noi. Amico mio. Le guerre sono finite! Sono finite! Ora regna la pace! E adesso il regno è stabile, si apre un'epoca di pace, di prosperità, i cavalieri che non devono più combattere contro dei nemici esterni possono dedicarsi alla popolazione, all'amministrazione della giustizia su tutto il territorio. E per Artù è il momento di sposarsi e Ginevra lo accetta, e ci mancherebbe altro, come si fa a rifiutare un re, soprattutto in quegli anni. Da quel momento in poi sarà sempre al fianco del marito, la sua devozione infonde in Artù una tranquillità, la serenità necessaria per essere un buon sovrano. E lui forse fa il primo errore, perché le concede il diritto di sedere alla tavola rotonda, quindi è l'unica donna in mezzo ai cavalieri più fedeli, e quindi questo diventa un elemento di disturbo, perché è il seme del futuro tradimento, quello che distruggerà quel castello anche di morale, di valori positivi. Il seme è già piantato, perché la scintilla tra Ginevra e Lancillotto è scoccata. Vogliono che vi chieda se una di loro potrebbe vincervi il cuore. Sono un uomo d'arme. Sono votato all'ideale. Ma di certo deve esserci una dama in qualche parte del mondo che vi ispira. Sì, ce n'è una. E chi è? Su, via, ditemi. Voi. Oh, vi fate gioco di me. Io vi amerò sempre. Vi amerò come mia regina e come moglie del mio migliore amico. E finché vivrete, non amerò un'altra. Qui si mette male. Lancillotto e Ginevra resistono alla tentazione di gettarsi l'uno tra le braccia dell'altra, però a corte qualcuno comincia a notare gli sguardi e le voci cominciano a girare, il gossip comincia a fare il suo corso, e questa diventerà la vigilia della fine. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Il regno di Artù è stabile, i nemici esterni, cioè i sassoni, sono stati respinti, i confini sono stati rafforzati, la Bretagna sta vivendo anni di pace, il sovrano conduce una vita serena con la moglie Ginevra che è al suo fianco, Camelot diventa un sogno diventato realtà, un sogno di giustizia, di pace, un sogno condiviso coi cavalieri della Tavola Rotonda, con tutta la popolazione. È un sogno che però sarà destinato a spezzarsi, a trascinare ogni cosa nel baratro. E cos'è l'unico fattore che può spezzare un sogno? Lo state per capire, se non l'avete già capito. Perché questa situazione idilliaca non sta appagando tutti allo stesso modo. La regina, che è Ginevra, e il primo cavaliere di Artù, che è Lancillotto, cominciano a provare una insana attrazione reciproca. Resistono a questa calamita. Lancillotto addirittura decide di allontanarsi dalla corte per evitare ogni tentazione, ma è troppo tardi, perché qualcuno si è già accorto di questi sguardi. Sardi, e Morgana, un'altra donna, la sorellastra del re. Morgana è la figlia di Gorlois, l'uomo ucciso da Uther Pendragon, quindi ha del risentimento, nutre sentimenti molto aspri, sentimenti di vendetta nei confronti di Artù. E i sentimenti di vendetta di una donna possono essere anche più letali dei poteri magici di un mago come Merlino, e in più lei ha anche dei poteri magici, diciamo, più delle donne medie che già ne hanno. E lei a sobillare uno dei cavalieri della tavola rotonda, Galvano, che accusa direttamente la regina di tradimento. Devi parlare dal cuore, siedi alla tavola rotonda. Dov'è questo male? Lui è il più bravo ed il più coraggioso. Perché dunque non è mai qui? Senza Lancillotto, questa tavola è niente. C'è qualcuno qui che non lo consideri un dio? Ed ora è allontanato da noi dalla bramosia di una donna. Nell'ozio che viene con la pace, vedo che le chiacchiere hanno concepito il loro male. Tu osi accusare la regina? L'accuso! No. Protesto la mia innocenza! Se non fossi io il re, ti farei pagare con la vita ciò che hai detto! Come è uso comune tra i cavalieri, solo un duello potrà stabilire davanti a Dio qual è la verità. È Lancillotto che difende l'onore di Ginevra. Artù è il re, da lui ci si aspetterebbe, come dire, una superiorità, che stia sopra le parti nel giudizio. Lui non può combattere per la moglie. E intanto Lancillotto sconfigge Galvano e per il momento l'onore è salvo. Però il tradimento è nell'aria, è solo questione di tempo. Lancillotto si allontana ancora una volta da Camelot, si accampa nella foresta e Ginevra rompe gli indugi, lo raggiunge nel bosco e cede alla tentazione. Insomma, questa camporella di quegli anni spezza l'onore insieme al sogno di un regno senza macchia. Il tradimento di Lancillotto e di Ginevra avvia questo processo inarrestabile. Il futuro di Camelot è segnato, così come il regno di Artù. È finito il momento delle scelte condivise, delle riunioni attorno alla tavola rotonda. Il re è solo, perfino Merlino, il suo druido, il suo consigliere, lo abbandona al suo destino. Tu avevi previsto questo tanti, tanti anni fa. Che devo fare ora? Ucciderli? Non posso dirti niente di più. I miei giorni sono finiti. Gli dèi di una volta sono andati per sempre. È il tempo degli uomini ora. Il tuo tempo, Artù. Mi servi ora, più che mai. No, questo è il momento che devi finalmente affrontare. Essere re e solo. Artù è solo, Camelot è silenziosa, lui è un uomo tradito e, come da copione, il tradimento è arrivato da chi meno se lo aspettava. Noi invece da fuori lo avevamo capito. Lui è debole e chi gli è nemico in questo momento può approfittarne. E Morgana non si fa sfuggire l'occasione che aspetta da tempo. Di notte entra nella camera da letto del fratellastro e usa lo stesso trucco che aveva utilizzato molti anni prima Merlino, cioè che aveva, quando aveva cambiato le fattezze di Uther per ingannare Igraine e illuderla di giacere con il marito. Bene, Morgana assume le sembianze di Ginevra e seduce Artù. Il suo scopo è quello di generare un figlio e negli anni successivi metterlo sul trono. Insomma, si compie questo incesto, Morgana rimane incinta. Per il regno di Camelot si apre una fase di ulteriore declino, il benessere che aveva segnato gli ultimi 12 anni diventa un lontano ricordo, la popolazione ha la fame, Artù è l'ombra di se stesso, dentro di lui si è spezzato qualcosa senza rimedio. Raccoglie cavalieri attorno alla tavola rotonda e da loro un ordine, l'impegna in una missione impossibile, l'unica strada per ritrovare la pace perduta. Dobbiamo trovare ciò che è perso. Il Graal. Soltanto il Santo Graal può far rinascere foglia e fiore. Solo il Graal può redimerci. La ricerca del Graal. la leggendaria coppa dalla quale Gesù aveva bevuto il vino durante l'ultima cena, nella quale era stato raccolto il suo sangue dopo la crocifissione. Questa ricerca allontana i cavalieri da Camelot per anni, è una missione disperata, molti di loro perdono la vita. Intanto Artù regna nella più totale solitudine, tormentato dai ricordi, dall'amarezza del tradimento. Camelot è crollata sotto il peso delle bassezze umane, sotto il solito peso. Ginevra intanto si è chiusa in un convento per espiare tardivamente davanti a Dio. Intanto passano gli anni, Morgana cresce, il figlio Mordred è il frutto avvelenato del suo rapporto incestuoso con Artù. La donna lo alleva come una specie di nemesi del fratellastro, è pronto a essere un dardo scagliato contro Artù. Quando il ragazzo raggiunge l'età giusta, lo spinge a affrontare il padre. Sono venuto a reclamare ciò che è mio, padre. Mostrati. Non posso darti la terra. Solo il mio amore. Quella è la sola cosa di te che non voglio. I cavalieri della ricerca hanno fallito. Sono morti tutti. È morto. Lo sei anche tu. Tornerò e prenderò la tua Camelot con la forza. Artù è un uomo ferito, tradito più volte, non è ancora sconfitto del tutto, ha un sussulto di vita, di orgoglio, decide di contrastare il figlio, riunisce le forze militari che gli sono rimaste, si prepara allo scontro. Lo scontro avverrà alla fine sul campo di Camlann, quello che passerà alla storia come l'ultima battaglia di re Artù. Le forze in campo si stanno confrontando, sono avvolte in una nebbia irreale, forse neanche Dio vuole vedere lo scontro tra un padre e un figlio. Il rumore delle spade contro le armature è assordante, sopravvivono in pochi e arriva l'epilogo, il faccia a faccia tra Artù e il figlio Mordred, il bene contro il male. E Mordred ha la peggio, è stato trafitto da Excalibur, ma anche Artù è ferito a morte. Al suo fianco c'è Parsifal, che raccoglie il suo ultimo ordine. Parsifal, prendi Excalibur. Vai a uno specchio d'acqua calma, chiara. Gettaci dentro la spada. No. Obbediscimi, Parsifal. La leggenda narra che dalle acque emerga una mano, quella della fata del lago. La mano prende in consegna l'arma e la conserverà forse per un altro re. Artù di Camelot è morente, viene trasportato a bordo di una nave nera sull'isola di Avalon per morire, o forse, come dicono alcuni, per riposare. È pronto a tornare quando sarà di nuovo il tempo dei cavalieri e della giustizia in una nuova Camelot. Non ero destinato ad una vita umana, ma ad essere l'essenza di memorie future. La fratellanza d'armi è stato un breve inizio, un bel momento che non può essere dimenticato. E poiché esso non sarà dimenticato, quel bel momento potrà ripetersi. Bene, che ci crediate o no, io sono ancora tra quelli che sperano che un giorno nel mondo arrivi una nuova Camelot, un luogo di lealtà e di onore. Chissà se qualcuno dei nostri nipoti o trisnipoti avrà la gioia di vedere una nuova Camelot. Il colpo d'ala, quello di riuscire a portare nel mondo, o quantomeno nella sua terra, un regno di pace, prosperità, lealtà e onore, almeno per 12 anni, Artù è riuscito a metterlo a segno. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco del gabbiano @radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi sui miei social, sui nostri social, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.